colomba bianca vola, diglielo tu che tornerò. Dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò. E beh, la tendenza è ovviamente Vola Colomba, non possiamo che sorridere un po' con questo pezzo immortale, poi lei era un personaggio straordinario. Vola Colomba, prepariamo le colombe per domani, chi ancora non l'avesse fatto ha ancora il modo e il tempo di scegliere la colomba migliore d'Italia. I consigli ce li dà ovviamente il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, buongiorno, non prepararti un bene. Bel Vola Colomba. Allora, sull'agnello ci sono tanti dibattiti e sono successe anche cose estreme a Radio 24 ieri tra animalisti e un nostro conduttore. Ormai ne parlano tutti i giornali, tutti i social. Ehi, per ora parliamo di colomba intanto, poi vedremo. La colomba credo metta tutti d'accordo. Dove la troviamo, la colomba perfetta? Bene. Allora diciamo subito che la colomba è nata all'inizio del Novecento da un signore che si chiama Dino Villani, quale ha voluto creare la versione pasquale del panettone. Quindi diciamo che viene fatta come viene fatto il panettone, quindi col lievito madre, con la farina, con le uova. Insomma, diciamo che ci avviciniamo molto ai contenuti, anche se la forma ovviamente rievoca una colomba e simbolo di pace. Allora cominciamo a fare un giro d'Italia. Cominciamo da la miglior colomba che ho mangiato ad oggi, perché l'ho assaggiata già parecchie, è la della boutique del dolce di Concorezzo, da un bravissimo pasticciere che si chiama Zoia, la boutique del dolce. Quindi credo che qui si mangia anche un'altra cosa molto molto pasquale, di cui parlerò dopo, è la pastiera. Nonostante sia Concorezzo sia in Brianza, si mangia anche una grande pastiera, poi ovviamente ne citerò nel napoletano. E poi ancora, se andiamo a Brescia, andiamo alla pasticceria Veneto di Gino Massari, diciamo il pasticciere con la P maiuscola italiano, conosciuto da tutti. Poi andiamo ancora a Tabiano, in provincia di Parma, dove c'è la focaccia, la chiama focaccia Claudio Gatti, alla pasticceria Tabiano, anche questa molto interessante. Poi ancora a Bologna da Gino Fabbri, a Roma all'antico forno Roscioli oppure di Attilio Servi, e poi ancora chi volesse comprarla ad Avellino, un posto importante, Dolci Arte di Carmen Vecchioni. Ho assaggiato la sua colomba di limone, al limone, e una anche fatta al latte e caffè, molto diversa, molto interessante devo dire. Quindi da mangiare al mattino quella di latte e caffè, perché così fa una colazione completa, ovviamente. Sì, anche perché poi se ne compra sempre una in più, così per una settimana poi è sempre Pasqua, perché un po' alla volta a colazione si mangia, diciamolo. Sì, e poi si può recuperare bene come il panettone, ecco. La colomba, sono questi dolci che diciamo si possono recuperare al meglio anche quando sono passati diversi giorni e magari non è più fresca e friabile come prima. Poi andiamo anche al sud, andiamo alle Grottaglie, in provincia di Taranto, alla pregiata Forneria Lenti. Ecco, questa è una colomba particolare perché è fatta a forno a legna. E poi ancora a Castel Buono, in provincia di Palermo, da Fiasconaro, anche Fiasconaro noto produttore di panettoni. Mi sembra in questa maniera di aver fatto il giro d'Italia, però voglio aggiungere una cosa. Sì. Ultimamente, come molti pizzaioli fanno il panettone, ci sono anche i pizzaioli oggi che fanno la colomba. Ne segnalo uno, la pizzeria si chiama Saporè ed è a San Martino Buonalbergo, in provincia di Verona, e lui si chiama Renato Bosco. Quindi lui fa un'ottima pizza, un ottimo panettone, un ottimo pane e anche un'ottima colomba. Il panettone prima me l'hai fatto provare ed era veramente favoloso, devo dire che sono allora d'accordo, allora la colomba sarà buonissima. E nei prossimi giorni ti faccio provare anche la pastiera. Però credimi, anche se ci sono state polemiche, per chi non è un animalista non c'è Pasqua senza agnello. Che sì, la tradizione è quella. E quindi io segnalo un posto che secondo me in fatto di agnello è veramente straordinario, che è in provincia di Brescia, e si chiama Ristorante Miramonti l'altro. Lo chef è un francese oggi, ma diciamo il ristorante è franco-italiano perché della famiglia Piscini, lui si chiama Philippe Lavallier, ed è l'uomo del burro perché ha fatto un libro, diciamo, controtendenza attorno al burro, l'uso del burro, che devo dire lentamente sta ritornando. E Pasqua significa anche uovo, perché è l'altro, diciamo, tradizione mangiare l'uovo a Pasqua. In Romagna, nelle mie terre, si mangia il bracciatello con l'uovo, ed è una pagnotta di pane con dentro incastonato l'uovo, che un tempo, magari c'è ancora qualcuno che va a farlo benedire in chiesa, perché l'uovo benedetto è tradizione del Pasquale, non so quanti lo fanno ancora, però c'è questa tradizione a Sarsina, in provincia di Forlì Cesena, e c'è appunto una panetteria che lo prepara ancora, ed è veramente un pane da mangiare con qualcosa di salato come il salame. Però l'uovo lo fanno molti cuochi anche d'avanguardia, e allora molto elaborato. Ad esempio a Milano c'è Daniel Canzian del ristorante Daniel, dove mangia un uovo alla salvia e al mais con una vellutata di patate affumicata e la trevisana. Questo poi l'ho proprio mangiato recentemente. Ma c'è un uovo veramente che aveva stravolto quando è uscito alla ribalta, il Cyber Egg di Davide Scabin del Combal Zero di Rivoli. Cioè, te lo mettevi in bocca e scoppiava. Quindi questo ha fatto un po' il giro del mondo, è stata una grandissima trovata. E poi ancora a Bormio, al ristorante Umami, lo chef Borruso presenta un nuovo pochè con fritto, con foie gras d'oca, tartufo nero e fonduta. Però arriviamo ancora a un ultimo prodotto, secondo me molto importante, della Pasqua, che è la pastiera. Allora, devo rivelarmi, è il mio dolce preferito. Ecco, buona, ora, pastiera, ora sì. L'ho detto, è un dolce che io adoro, è napoletano, napoletanissimo, però devo dire che come il panettone ormai si è diffuso molto al sud, anche la pastiera si sta diffondendo al nord. Qui la cosa fondamentale è avere una grande ricotta di pecora. Ci sono molte discussioni se vaccina, se di capra, però la ricotta di pecora è quella tradizionale, come il grano cotto e come quello che chiamano fior d'arancio, che è questo sapore che si sente in fondo quando si mangia piacevolissimo la pastiera. E mi risulta che addirittura molti vadano a comprare il fior d'arancio in farmacia, proprio quindi ad hoc. Altri invece sicuramente metteranno semplicemente dell'arancio candito. Dove trovare la pastiera? Come dicevo prima, al nord quella che a me piace molto è la boutique del dolce di Concoretto, però è Napoli ovviamente che è la grande, perché è la patria. Allora c'è un locale, una pasticceria storica, che diciamo viene identificata come la madre di tutte le pastiere, ed è Scaturchio. Scaturchio è considerato, insomma, la pastiera viene riportata sempre a Scaturchio, anche se questa pasticceria ha avuto delle evoluzioni, non c'è più il fondatore, comunque rimane il punto di riferimento. E poi anche la pasticceria Bellavia, la pasticceria Attanasio, ecco, queste sono tutte napoletane. Però aggiungo un indirizzo che magari al radioascoltatore potrà sembrare molto ma molto strano, che è un genere alimentare, è il mio luogo dove io ordino via posta la mia pastiera, e si chiama Alimentari Fusco a Fuori Grotta. Questo Alimentari Fusco fa anche il casatiello. Ah, infatti te lo stavo chiedendo, perché io sono una, io da Brianzola, però che conosce Napoli, io sono una fan del casatiello che non si trova da nessuna parte. Questa come possiamo definirla, per chi non l'avesse mai provata? Una torta salata? È una torta salata con dentro ci sono i ciccioli, c'è del formaggio, è una torta molto sostanziosa, cioè se fatta bene anche, diciamo, si digerisce bene, se non è fatta bene non si digerisce molto bene, però è golosa da morire, quindi secondo me questo è una diciamo è un qualcosa, è un boccone goloso che ti metti in bocca, ne vorresti mangiare tanto, poi ti fermi perché veramente riempie. Comunque, se vuoi un indirizzo, Alimentari Fusco a Fuori Grotta a Napoli, secondo me il casatiello è di casa. Poi si può anche tenere, c'è qualcuno che lo riscalda anche, ma probabilmente viene rovinato. Come abbiamo visto, cioè, la Pasqua è ricca di prodotti, è ricca di, secondo me, le cornie, ma è golosa anche. Forse a differenza del Natale è molto più golosa, perché ci sono cose che sicuramente conquistano il palato. Quindi credo che, così, ho dato una serie di indirizzi, avrei potuto darne molto di più, ma mi sono limitato perché ho fatto un giro d'Italia, un po' di tutto. Sì, sono contenta perché abbiamo tanti indirizzi per tanti luoghi diversi. Non abbiamo parlato di uova di cioccolato, voglio sapere se sei un fan, solo questo. Perché io un ovetto di cioccolato ce l'ho a casa per domani. No, uova di cioccolato ce ne sono di buoni in giro. Devo dire che forse qualche anno fa ancora mi piacciono molto, ma quello che mi piace dell'uovo di cioccolato è la sorpresa. Ah. E allora ti posso raccontare un particolare molto interessante. Anni fa un pasticcere, di cui non farò il nome, toscano, anzi di Monsumano Terme, famosissimo, mi ha raccontato che tanti anni fa nell'uovo di Pasqua lui ha avuto l'onore e così la gioia di mettere una chiave per una Ferrari e una pelliccia di visone e le chiavi di una villa, che erano il regalo pasquale che qualche signore molto ricco faceva alla sua bella. Quindi ti dico, ecco cosa può portare l'uovo di cioccolato. Ma cioccolatieri italiani ce ne sono bravissimi. A Milano c'è Davide Comaschi, che sicuramente è campione del mondo del cioccolato, quindi vale la pena di ricordarlo, perché l'uovo di Comaschi forse è uno dei non plus ultra. Fantastico, grazie Davide per essere stato con noi, ho preso un sacco di appunti, buona Pasqua. Buona Pasqua anche a te e a tutti i radioascoltatori. Ci ritroviamo il prossimo sabato, grazie al nostro gastronauta Davide Paolini, ciao, ciao Davide. A presto, ciao.